America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Si apre una settimana di fuoco con questo lunedì. Il presidente del Consiglio Enrico Letta arriverà questa sera a New York, domani Barack Obama alle Nazioni Unite, ma non sarà per l'Italia soprattutto soltanto una settimana politica, sarà anche una settimana economica. Devo dire, ci sarà un debutto del Presidente del Consiglio a Wall Street, andrà al New York Stock Exchange, ci saranno incontri con gli investitori, ci sarà un incontro al Council on Foreign Relations, ci sarà la presentazione di questo progetto Destinazione Italia. Ecco, la questione economica, come dire, dominerà questa settimana, e dunque io su questo vorrei focalizzare la trasmissione di oggi. Ho con me ai microfoni di America 24 un ospite che direi è molto rappresentativo sia per la presenza da un punto di vista di investimento della sua azienda in questo paese, sia perché è stato recentemente in the news. E ho con me Fulvio Conti, amministratore delegato dell'Enel. Buongiorno Conti. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Anzi, dovremmo dire hello. Hello. Hello, hello, ecco. Hello everybody. Ma com'è, scusi, adesso poi parliamo di cose più serie, ma come l'ha imparato l'inglese? Beh, l'ho imparato da ragazzo, ascoltando The Voice of America, come ascoltavo anche altre radio, mentre lavoravo di notte. Io lavoravo per guadagnarmi quanto necessario per studiare, e ascoltavo queste radio per immagazzinare dei suoni che poi controllavo con dei giornali. Lavorava di notte facendo che cosa? Facevo il fornaio. Il fornaio? Sì, ma dove? A Roma, nella mia città. Quindi ha imparato le lingue alla radio? Ascoltando la radio e associando i suoni che immagazzinavo durante la notte, e la mattina quando uscivo dal mio lavoro, dovevo tornare a scuola, compravo dei giornali stranieri, accoppiavo i suoni con delle scritte. E mi esercitavo in questo, e alla fine. Però non basta, risultato. Poi ha lavorato anche in contesti stranieri. È evidente che poi ho continuato a usare le lingue, ho potuto lavorare 22 anni con una società americana, multinazionale, la Mobil Oil, in giro per l'Europa e anche alcune volte negli Stati Uniti, quindi ho continuato a perfezionarmi. Oggi direi che ho un buon livello di inglese, ma anche altre lingue. Poter parlare la stessa lingua delle persone che uno incontra, ministri, presidenti o anche colleghi, trasmette quell'emozione e quella motivazione che poi aiuta l'azienda. Sì, no, devo dire, parlare la stessa lingua è fondamentale, anzi io ho insistito su questo punto, perché credo che da noi in Italia siamo molto indietro, continuo a dirlo, lo dico anche adesso a chi ci ascolta: incoraggiate i vostri figli a imparare le lingue straniere, l'inglese prima di tutto, perché è il mezzo di comunicazione più importante. Ma veniamo al fatto che lei fa un po' da apripista a questa missione economica che sarà guidata dal Presidente del Consiglio Letta, perché avete chiuso proprio la settimana scorsa una importante emissione obbligazionaria, mi pare che si parli di 1,3 miliardi di dollari, esatto. 1.3 billion dollars, non trovo da poco. Raccolti in poche ore sul mercato qui in America, frutto di una, prima di tutto, di una buona offerta in termini di rendimento, ma sicuramente anche grazie al buon nome che Enel mantiene sui mercati. Ecco, lei parla di rendimento. Il rendimento in dollari è stato? Il rendimento in dollari è intorno all'8%, ma poi viene swappato in euro, scende al 7%. Ma se qualcuno in Italia dice, ma insomma, un rendimento al 7%, 7,5% è interessante, sarà possibile acquistare questi titoli sul mercato secondario? Possibile, sì, questi verranno. A partire da quando? Saranno liberati nei prossimi giorni, ma quello in euro è già oggi disponibile, sta funzionando. Ed è alla parità? Sta migliorando ancora, perché è molto in domanda, quindi c'è una domanda ancora che sta come dire, stringendo ancora di più. Ecco Conti, qualcuno dice che però l'Enel è troppo esposta, 43 miliardi di euro di debito, flussi di cassa che sono un po' in diminuzione per via della crisi, per via di imposizione fiscale. Insomma, lei cosa risponde a quegli analisti che sono così un po' preoccupati? Noi continuiamo a produrre enormi quantitativi di flussi di cassa che sono a servizio del nostro sviluppo continuo e alla politica di dividendi, e allo stesso tempo a rimborsare gradualmente il nostro debito. Il debito di per sé è elevato, ma è altrettanto certo che è coperto dal nostro flusso di cassa, delle nostre attività produttive. Abbiamo utilizzato la leva finanziaria, abbiamo fatto del debito per comprare aziende che producono flussi di cassa e che abbiamo ulteriormente ottimizzato concentrandole, integrandole nel nostro sistema. Ecco, voi siete molto presenti sul mercato americano, avete un investimento in Green Power. A quanto ammonta la vostra presenza? Circa 3 miliardi di dollari, poco più di 2 miliardi di euro al momento, e continua a crescere perché l'America da questo punto di vista è un paese di grande opportunità. Ha doti particolarmente rilevanti di risorse naturali a disposizione. Noi investiamo senza alcun sussidio e prendiamo atto della volontà di questa amministrazione di spingere molto in direzione dell'energia sostenibile e le rinnovabili lo sono in questo senso, e quindi continuiamo a credere che questo sia un mercato in cui continuare ad investire. Quindi quando arriverà il primo ministro Letta si troverà non soltanto a parlare di quella che è l'opportunità di investimenti in Italia, ma avrà anche alle spalle la forza di una presenza italiana significativa come lei. Ecco, lei ha a che fare con gli investitori americani. Che consiglio può dare a Letta nel momento in cui parlerà di investitori? Vogliono cose molto concrete. Si è parlato di destinazione Italia, questo progetto secondo lei funziona o diciamo un wishful thinking, un po' un libro dei sogni? No, è una necessità assoluta. Noi dobbiamo rendere più attrattivo la nostra capacità di accogliere investimenti, dobbiamo semplificare la burocrazia, dobbiamo rendere certo il percorso della giustizia, dobbiamo evidentemente favorire l'ingresso di giovani nel lavoro incentivandone in qualche modo le assunzioni, e però allo stesso tempo mantenendo un certo grado di flessibilità nell'utilizzo della manodopera. Tutte cose fondamentali che stanno intorno all'essenza dei nostri problemi, che sono le riforme mancate ad oggi che dovranno essere attivate, la riforma della pubblica amministrazione, lo snellimento burocratico e una più chiara e trasparente politica fiscale che incentivi gli investimenti e non porti soltanto la paura di dover essere colpiti da imposte eccessive. Conti, parliamo di consumo. Abbiamo una gran quantità di persone che ci ascolta che vuol sapere come saranno i loro consumi elettrici. Che cosa darà l'Enel al consumatore italiano? Ancora più elettricità, ma con un consumo più intelligente, cercando di fargli risparmiare, aumentando l'efficienza di questa energia attraverso nuove tecnologie che presto saranno disponibili per tutti i cittadini clienti. Quindi per esempio in casa più elettricità per il riscaldamento e meno gas? Pompe di calore elettrico che potranno fornire calore e frigorie in modo da avere freddo e caldo allo stesso tempo. Inoltre promuoviamo anche lo sviluppo dell'elettricità nel campo della mobilità. Le auto elettriche stanno diventando sempre più una realtà. Abbiamo 1000 colonne di ricarica in giro per l'Italia. Pensiamo di poter sviluppare ulteriormente. L'efficienza di un motore elettrico è di gran lunga superiore, per cui una macchina elettrica può durare 150 km, 200 km senza una ricarica, e questo ha un enorme risparmio, circa 40% di risparmio che un cittadino può realizzare. Ecco, parliamo di risparmio. La bolletta cosa dice ai nostri ascoltatori? La diminuiamo? La bolletta è fatta di 3 componenti: il costo dell'energia, il costo del trasporto e la distribuzione e gli oneri associati. Il costo dell'energia è la metà della bolletta, quindi noi riusciamo a controllare soltanto la metà di questo costo. Cerchiamo di fare il nostro meglio differenziando le tecnologie, riducendo il costo della materia prima per poter ulteriormente ridurre il costo della bolletta, ma ahimè gli altri 2 componenti, che sono trasporto e distribuzione, sono regolati, e gli oneri accessori li decide il governo, quindi dobbiamo in qualche modo farci carico di un fatto che nel tempo sicuramente porterà a una riduzione, ma io questo non lo posso garantire. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Soprattutto mandatemi i vostri commenti su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, che canzone proponiamo? Io penso che sia meglio pensare in maniera molto americana, ancorché un po' italiana, con Blue Eyes, Frank Sinatra, My Way. Saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Per ora è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!